Secondo libro delle cronache, capitolo tredicesimo. Il 18° anno del regno di Geroboamo, Abigia cominciò a regnare sopra Giuda, regnò 3 anni in Gerusalemme, sua madre si chiamava Micaia, figliola di Uriel, da Gibea, e ci fu guerra fra Abigia e Geroboamo. Abigia entrò in guerra con un esercito di prodi guerrieri, 400.000 uomini scelti, e Geroboamo si dispose in ordine di battaglia contro di lui con 800.000 uomini scelti, tutti forti e valorosi. Ed Abigia si levò e disse dall'alto del monte Semaraim, che è nella contrada montuosa d'Efraim: «O Geroboamo e tutto Israele, ascoltatemi! Non dovreste voi sapere che l'Eterno, l'Iddio di Israele, ha dato per sempre il regno sopra Israele a Davide, e Davide ed ai suoi figlioli con un patto inviolabile? Eppure Geroboamo, figliolo di Nebat, servo di Salomone, figliolo di Davide, si è levato e si è ribellato contro il suo Signore, e della gente da nulla, degli uomini perversi, si sono raccolti intorno a lui, e si sono fatti forti contro Roboamo, figliolo di Salomone, allorché Roboamo era giovane e timido di cuore, e non poteva tener loro fronte. Ora, voi credete di poter fronte al regno dell'Eterno che è nelle mani dei figlioli di Davide, e siete una gran moltitudine, e avete con voi i vitelli d'oro che Geroboamo vi ha fatti per vostri dei? Non avete voi cacciati i sacerdoti dell'Eterno, i figlioli di Aaron e di Leviti? Non vi siete voi fatti dei sacerdoti al modo dei popoli di altri paesi? Chiunque è venuto con un giovenco o con 7 montoni per essere consacrato è divenuto sacerdote di quelli che non sono dei. Quanto a noi, l'Eterno è nostro Dio, e non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti al servizio dell'Eterno sono figlioli di Aaron, e i Leviti sono quelli che celebrano le funzioni. Ogni mattina e ogni sera essi adorano in onore dell'Eterno e ardono gli olocausti e il profumo frangente, mettono in ordine i panni della presentazione sulla tavola pura, ed ogni sera accendono il candelabro d'oro con le sue lampade, poiché noi osserviamo i comandamenti dell'Eterno, del nostro Dio, ma voi l'avete abbandonato. Ed ecco, noi abbiamo con noi alla nostra testa il Dio e i suoi sacerdoti e le trombe squillanti per suonare la carica contro di voi. O figlioli di Israele, non combattete contro l'Eterno, che è l'Iddio dei vostri padri, perché non vincerete. Intanto Geroboamo li prese per di dietro mediante un'imboscata, in modo che le truppe di Geroboamo stavano in faccia a Giuda, che aveva dietro l'imboscata. Quei di Giuda si voltero indietro, ed eccoli costretti a combattere davanti e di dietro. Allora gridarono all'Eterno, e i sacerdoti diedero nelle trombe. E la gente di Giuda mandò un grido, e avvenne che al grido della gente di Giuda il Dio sconfisse Geroboamo e tutto Israele davanti ad Abigia ed a Giuda. I figlioli di Israele fuggirono innanzi a Giuda, e Dio li diede nelle loro mani. Abigia e il suo popolo ne fecero una grande strage, dalla parte di Israele caddero morti 500.000 uomini scelti. Così i figlioli di Israele in quel tempo furono umiliati, e i figlioli di Giuda ripresero vigore, perché s'era appoggiati sull'Eterno, sull'Iddio dei loro padri. Abigia inseguì Geroboamo e gli prese delle città, Betel e le città che ne dipendevano, Jeshama e le città che ne dipendevano, Efraim e le città che ne dipendevano, e Geroboamo al tempo di Abigia non ebbe più forza, e colpito dall'Eterno, egli morì. Ma Abigia venne potente, prese 14 mogli e generò 22 figlioli e 16 figliole. Il resto delle azioni di Abigia, la sua condotta e le sue parole, trovasi scritto nelle memorie del profeta Iddo. E Abigia s'addormentò con suo padre e fu sepolto nella città di Davide. E Asa, suo figliolo, regnò in luogo suo, e al suo tempo il paese ebbe requie per 12 anni.